Dopo un periodo che sembrò un'eternità, l'interprete ritornò. Strisciò quattro zampe sul pavimento, spingendo avanti un gomito dopo l'altro. Ci fu uno scambio di parole incomprensibili. Il Kralahom si inchinò, si girò e scomparve dietro uno specchio. In quel momento si sentì in lontananza una musica dolce e selvaggia come il trillo di campanelli d'argento. L'interprete si alzò e sbadigliò. Con arroganza si avvicinò a uno specchio e iniziò a studiarsi con ammirazione. Poi si avvicinò alla signora inglese. «Salve, buongiorno, come sta?» disse guardandola con audacia. «Buongiorno», rispose lei freddamente. «Pensavo che fossi un servo». Lui si raddrizzò offeso. «Sono il fratellastro del Kralahom!» La guardò con aria lasciva. «Dovrebbe essere gentile con me!» Lei si alzò. «Non voglio che strisci i miei piedi come tuo fratello, ma ricorda che esigo rispetto». «Mio fratello spesso ascolta quello che dico». Il suo sguardo era malizioso. «Venga, le hanno preparato delle stanze». Il piccolo gruppo lo seguì per lunghi corridoi. «I miei amici sono suoi amici, i miei nemici sono i suoi», continuò la loro guida, ridendo con aria astuta. «Io non chiedo molto, penso devi dare». Anna non fece alcun movimento in direzione della borsa e lui li condusse verso due grandi stanze all'estremità occidentale del palazzo. Lungo le pareti erano già stati collocati i bauli e le scatole. Le stanze si affacciavano su una piazza tranquilla, ombreggiata da alberi da frutta in fiore e su un piccolo lago artificiale pieno di pesci colorati. Il fratellastro del Kralahom entrò con loro nella stanza. Come Anna passò dalla prima alla seconda, lui le si avvicinò. Lei pestò il piede con viso scarlatto. «Vattene, creatura disgustosa, scompari!» Subito lui si inginocchiò e dalla soglia la supplicò in modo abietto. Anna si fermò sbalordita per l'effetto delle sue parole. L'uomo si prostrò davanti a lei come aveva fatto con suo fratello. «Mem, non lo dica a mio fratello, prometto che non la importunerò più!» Non aveva tanto potere quanto voleva far credere, dunque. Anna era contenta di non averlo pagato. «Prometto», acconsentì senza preoccuparsi di nascondere il disprezzo nella sua voce. «Ma adesso vattene!» Con uno sguardo colmo di risentimento, parzialmente soffocato, lui fuggì. Era appena scomparso che le donne dell'harem del Kralahom piombarono in massa su di lei. Erano giovani, quasi tutte con lineamenti delicati, attraenti anche per quell'inglese dai gusti difficili, a parte i denti neri e i capelli tosati. Le più giovani avranno avuto sì e no 14 anni, erano tutte riccamente vestite, anche se il loro gusto non era diverso da quello degli schiavi che in gran numero si prostravano alle loro spalle sui pavimenti della stanza e nel corridoio. Una vecchia miserabile si fece largo tra la folla rumorosa con aria autorevole indicando Luis, disse in malese al loro familiare: «Mulei, mulei, bello, bello!» Il suono delle parole conosciute era delizioso per le orecchie di Anna. Si rivolse alla donna nella stessa lingua. «Oh, è bello sentire ancora parlare malese, ma cosa ci fa una malese in un palazzo del Siam?» La vecchia si sedette comodamente su un divano e si preparò con l'aria del narratore consumato. «Sono nata a Kedah», iniziò. «Un giorno di 60 anni fa mia sorella e io stavamo lavorando nei campi quando fummo catturate da alcuni avventurieri siamesi. Ci portarono a Bangkok e ci vendettero come schiave. Dapprima piansi la mancanza dei miei genitori, ma ero giovane e bella ed ero stata comprata per Somdet Ong Yai, il padre del mio padrone, il Kralahom. Il principe si accorse di me e divenni la sua favorita. Gli diedi due figli meravigliosi, proprio come questo Mulei ragazzo. Ma sono morti». Si asciugò gli occhi con un fazzoletto di seta sporco. Queste lacrime furtive la fecero sembrare meno brutta agli occhi di Anna, che provò un improvviso moto di pena. Anche lei conosceva l'angoscia di perdere un figlio. «E anche il mio grazioso padrone è morto, vedi? Mi ha dato questa bella scatola d'oro per il Betel». Anna guardò la scatola e sorrise con ammirazione. «Ma come mai sei ancora una schiava?» chiese. «Sono vecchia, brutta. Non ho figli e quindi dipendo dal figlio del mio signore. E quindi adesso ho l'onore di curare le sue favorite e di assicurarmi che non conoscano altro uomo all'infuori di lui». «Il ciclo dell'harem», pensò Anna rabbrividendo, «schiavitù fisica e spirituale». Adesso che la storia era finita, la donna si mise a masticare. Le giovani, che fino allora erano state tranquille, non riuscirono più a controllare la loro agitazione e sciamarono attorno ad Anna, bombardandola di domande che la vecchia malese tradusse. «Quanti anni ha? È sposata? Ha altri figli? Quanti maschi? È ricca? Da dove viene?» Una più impertinente delle altre si sporse in avanti all'improvviso e disse qualcosa che scatenò una risata collettiva. La donna malese tradusse fedelmente, chiede se le piacerebbe essere una moglie del padrone. Non pensa che sarebbe meglio essere la moglie del signore della vita, cioè del re? A quel mostruoso suggerimento Anna rimase senza parole. Quelle ragazze, stupide e volgari, pensavano che sarebbe entrata nell'harem del re. Allibita ricordò che l'avvocato di Singapore aveva ricevuto disposizioni di trovare un inglese di bell'aspetto e di buona famiglia per l'harem, che includeva già, oltre a ragazze siamesi di buona famiglia, molte cinesi e indiane acquistate ogni anno da agenti di stanza a Pechino, Fuzhou e in altre parti dell'India. Senza dire una parola, Anna si alzò e si ritirò nella stanza più interna. Ma le ragazze, senza farsi scrupoli, la seguirono continuando a ripetere la stessa domanda, ridendo e dandosi gomitate, coinvolgendo la riluttante governante malese a interpretare le risposte. Era stata una provocazione. Le vennero in mente parole dure, poi ricordò quanto fossero povere le loro vite, senza libertà, speranze, istruzione e amore, e ricacciò le parole in gola. Con voce controllata disse: «Se vi darò una risposta, ve ne andrete da brave e mi lascerete in pace per un po'?» Annuirono. Lentamente rispose, mentre la governante traduceva una frase alla volta: «Il Kralahom, il vostro signore, e il re, il signore della vita, sono buddisti. Una donna cristiana come me si farebbe torturare e incatenare a vita in prigione piuttosto che entrare nell'harem dell'uno o dell'altro.» Rimasero incredule, in silenzio. «E se ti riempisse di gioielli?» chiese la più audace. «No, nemmeno allora. Sono qua solo per insegnare ai bambini del re. Sono diversa da voi. Voi non dovete fare altro che giocare, cantare e ballare per il vostro padrone, ma io lavoro. Lavoro per provvedere ai miei figli dal momento che mio marito è morto. Uno di loro sta attraversando l'oceano per andare a scuola in Inghilterra. È una bambina di 7 anni e sono molto triste per essermi dovuta separare da lei.» I visi attorno a lei manifestarono un'ondata di simpatia. Poi ripeterono: «Futo, futo, caro Buddha, caro Buddha», e se ne andarono in silenzio. Passò un minuto e le udì ridere mentre si allontanavano nei corridoi del palazzo. 7. La casa del Kralahom. Dopo che le sue visitatrici si furono allontanate, Anna aprì le valigie. L'appartamento era arredato in modo confortevole, all'europea. Louis giocava felice nel piccolo giardino vicino allo stagno, mentre Bibi e il cane Bessie facevano la guardia. All'improvviso tutta la stanchezza del giorno precedente e della notte insonne sopraffece Anna. Le valigie potevano aspettare. Si stese sul letto, grata per la tranquillità e la spaziosità della stanza, e cadde in un sonno profondo e senza sogni. Qualche tempo dopo fu svegliata da grida acute: «Mem! Mem! Mem Sahib, aiuto!» Era Bibi che chiamava. Allarmata, Anna balzò dal letto proprio mentre la donna entrava di corsa nella stanza. Era a testa scoperta, il fine sari di mussola tutto calpestato e il viso verde per il terrore. Lui si arrivò di corsa dietro di lei. «Bibi, tranquilla, tranquilla, dimmi cos'è successo.» Bibi, tremante, si lasciò cadere a terra. «Mem Sahib, mio marito, il vostro buon insegnante, è caduto nelle mani dei barbari. Ci aiuti!» strillò in preda all'angoscia. «Coraggio, Bibi, calmati e dimmi cosa è successo o cosa posso fare per aiutarti.» «Mem Sahib non voleva fare del male, non sapeva. Come poteva immaginare?» «Ma immaginare cosa?» insistette Anna. Bibi inghiottì le lacrime come meglio poté. «Non sapeva che era l'harem. Non è cintato come in India, mem. È entrato nei quartieri delle favorite ed è stato arrestato da 2 brutte donne, grandi e grosse, e trascinato in tribunale.» Anna non si spazzolò nemmeno i capelli, ma seguì la sua tremante ayah in un salone aperto che serviva da tribunale. Monshi, rispettabile servo del profeta, stava in piedi con le mani legate dietro la schiena con espressione afflitta ma rassegnata. Da musulmano fedele stava aspettando pazientemente che gli tagliassero la gola. Quando si girò a guardare la sua padrona, gli occhi erano calmi, ma privi di speranza. «Monchi!» esclamò lei. «Non fare così e non preoccuparti. Troverò l'interprete e sistemeremo tutto!» Monchi non disse nulla e Anna corse via alla ricerca del fratellastro del Kralahom. Non osava allontanarsi troppo per paura di entrare in qualche zona proibita del palazzo. Non riuscì a trovare l'interprete. Tornando di corsa nel salone, vide che era arrivato il giudice. Disperatamente, a segni e a gesti, cercò di spiegare che l'offesa portata dal suo servo era stata involontaria. Il giudice non riuscì o non volle capire. Lanciò delle grida in direzione dell'uomo facilmente comprensibili, anche se le parole erano scure. Monchi sopportò l'abuso con calma indifferenza. E per di giorno nei cortili e sotto i portici si scossero dai loro sonnellini e circondarono il gruppo nel salone. Con loro arrivò l'interprete. Anna corse immediatamente da lui. «Vieni, svelto!» e spiega al giudice che Monchi non sapeva dove stava andando e che è entrato nell'harem per errore. Il giovane la guardò con insolenza, poi si girò scrollando le spalle. «È un problema del giudice, non posso interferire. Il tuo stupido servo sarà punito come merita». Anna si chiese brevemente se dopo tutto non aveva sbagliato a non comprare l'interprete. Poi il giudice fece una pausa drammatica e con voce solenne pronunciò la sentenza. Un lacchè portò una frusta, altri schiavi fecero un passo in avanti e con mossa repentina stracciarono gli abiti del vecchio. Anna aveva lo sguardo vitreo. Si diresse con decisione dal giudice e lo guardò fisso negli occhi. «Se una sola frustata cadrà sulla schiena di questo vecchio, mi rivolgerò al console inglese, quindi stia attento a quello che fa». Anche se parlava in inglese, le parole console inglese avevano un significato anche per il giudice. Bloccò il lacchè con la frusta e si girò verso l'interprete, parlandogli in siamese, dando inizio a una lunga conversazione. Anna osservava ansiosamente. Il giudice chiedeva, l'interprete spiegava. Nessuna delle due facce crudeli mostrava segni rassicuranti. All'improvviso entrambi si prostrarono per terra insieme a tutti i presenti, a eccezione di Monchi, Bibi e Anna. Dietro di lei, senza essere stato annunciato, era comparso il Kralahom. Con calma prese in mano la situazione. Sempre con calma fece cenno agli schiavi di slegare i polsi di Monchi. Con la coda dell'occhio Anna vide l'interprete che sulle ginocchia e sui gomiti si spostava all'indietro finché si fece largo tra la folla e fu fuori dalla vista di suo fratello. Appena ebbe le mani libere, Monchi raccolse il suo turbante e con la dignità che non l'aveva mai abbandonato lo posò ai piedi del suo liberatore. «La pace sia con voi, o visir di un re saggio», disse in indostano. L'aspetto mite e venerabile di Monchi con la barba bianca che gli ricadeva sul petto doveva avere dissipato ogni dubbio del Kralahom. «Puoi andare nella stanza di tua moglie, vecchio», disse in inglese, e il piccolo gruppo si sciolse. Anna tornò al suo appartamento e ricominciò a sistemare le valigie. L'episodio l'aveva sconvolta e mettere a posto le cose la rinfrancava, calmava un po' i suoi nervi scossi. Rimase così occupata fino alle 5 quando le venne portata la cena. Fu apparecchiata da alcuni paggetti su un tavolo. Lei e Luis si sedettero e, piuttosto incerti, iniziarono il loro primo pasto siamese. Sembrava un misto di cibi europei e curry e salse, evidentemente siamesi. I paggetti li servirono e di tanto in tanto saltavano sopra due grandi teste di medusa in porcellana che si trovavano davanti alla finestra e sputavano nel cortile. Quando lei indicò con aria di rimprovero questo peccatuccio, loro si misero a ridere e scapparono via. Ben presto furono sostituiti comunque da un altro gruppo di paggi che portavano la frutta. La sistemarono sul tavolo, nelle loro ceste, poi si ritirarono sui divani, aspettando e guardando con interesse lei e Luis che cenavano. Anna scosse la testa. I servitori ridacchiarono, saltarono giù dai divani, si esibirono in piroette sul tappeto e volarono via. Il secondo giorno in Siam era passato. In giardino Bibi e Monchi si stavano preparando la cena. Il fumo della loro pentola veniva lentamente portato verso l'alto dall'aria calda, mossa solo dalle risate incuranti di alcune ragazze che si tuffavano e si agitavano nel lago dorato. La sua disavventura non aveva alterato l'imperturbabilità di Monchi. Anna, invece, ne era ancora scossa. Forse avrei dovuto tenermi buono quel mascalzone, pensò. È vendicativo e pericoloso. Le guance le diventarono rosse per la rabbia. No, doveva metterlo al suo posto. Anche se ci può creare dei guai, ma quando avremo una casa nostra tutto andrà meglio. E le dava conforto vedere che il Kralahome era stato giusto. Era decisa a insistere perché la promessa del re venisse mantenuta il più presto possibile. Il giorno seguente, mentre finiva di sistemarsi, Anna ricevette le prime visite. Sentì bussare alla porta e fu sorpresa di trovarsi di fronte un euroasiatico che si inchinò leggermente. «Mi chiamo Robert Hunter, signora. Sono il segretario inglese di Sua Eccellenza. C'è niente che posso fare per lei?» Lei si sentì immediatamente sollevata, scoprendo che non doveva dipendere dal fratellastro come interprete. «Oh, signor Hunter, sono lieta di incontrarla. Al momento non mi occorre niente, ma certamente più tardi mi rivolgerò a lei.» Lui si inchinò gravemente. «Le mie responsabilità di ufficiale portuale mi tengono lontano parecchie ore al giorno, ma sono sempre presente, almeno per un po'. Parlava in modo formale, ma amichevole. Se adesso non ha bisogno di me, mi ritiro.» «Ha idea di quando il re mi manderà a chiamare, signor Hunter?» Il segretario sembrò riflettere. «È difficile dirlo, signora. Possono essere diversi giorni o diverse settimane. Sua maestà è impegnata con due importanti cerimonie che sono iniziate il giorno del suo arrivo e dureranno fino al 21. Si sta celebrando la rasatura della figlia maggiore e l'investitura ufficiale del figlio più grande, il principe Chulalongkorn. Longhorn. Al ragazzo verrà offerta una tavoletta d'oro con inciso il suo nome e dopo gli verranno assegnate una posizione ufficiale e un titolo.» «Vuol dire che verrà insediato come principe ereditario?» chiese Anna con interesse. «No, non esattamente. Avrà un grado di 40.000 sakdina. Non è un concetto facile da spiegare. Un uomo comune ha solo 6 sakdina. Si potrebbero chiamare gradi o punti. Quindi, naturalmente, 40.000 lo metteranno al di sopra di qualunque altra persona del regno.» «L'erede presunto, forse?» suggerì Anna. «E sarà uno dei miei allievi?» «Credo di sì», confermò il signor Hunter. Era lieta di questa notizia. La sua decisione di venire in Siam non era stata dettata completamente dal bisogno di lavoro. In un certo senso si sentiva predestinata. Il movimento per l'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti l'aveva colpita. Forse l'opportunità di insegnare all'Harem avrebbe significato la possibilità di inculcare nei suoi alunni la convinzione che l'animo umano fosse sacro e che ogni sistema che permettesse a una persona di possederne un'altra fosse malvagio. Riflettendo sui suoi 27 anni, che dopo un inizio promettente avevano subito avverse fortune, era possibile che, come la regina Esther della Bibbia, fosse venuta al mondo per questo motivo? Se il giovane erede era un suo allievo, poteva sperare, almeno, di plasmarlo un po'. «Lei crede che mi manderà a chiamare non appena la cerimonia sarà finita?» chiese al signor Hunter, mentre questo quadro passava davanti alla mente. «Non saprei, signora», tergiversò. «C'è il signor Alexander Loudon che deve discutere di affari importanti. Poi inizierà il nuovo anno e dopo c'è un'altra cerimonia che si chiama Songkran. Poi ci sarà la cremazione della defunta consorte del re. Penso che avrà un po' di tempo per sé.» Si inchinò nuovamente e uscì. Poco dopo si presentò un paggetto con un biglietto che diceva «Signor George Horton». Dietro di lui c'era il capitano sorridente. Era una vista piacevole e familiare nell'ambiente nuovo e strano e il saluto di Anna fu caloroso. «Salperemo con la marea», spiegò. «Volevo sapere se ha qualcosa da spedire ai suoi amici di Singapore.» «Oh, capitano Horton, com'è gentile. Si sieda, nel frattempo manderò Bibi a prendere della frutta.» Mentre aspettava, si sedette e scrisse ad Avis, sua figlia. Che dirle? Ma appena iniziò, la lettera si scrisse da sola. «Mia cara Avis, gli uccelli cantano allegri e il sole splende mentre ti scrivo. Sii coraggiosa e non piangere se hai amici vicino, perché questo renderà tristi loro e la mamma. Guarda ogni sera il cielo blu, perché lo guarderò anch'io, e pensa a tutte le cose che arrivano da là, il sole, la pioggia, il vento e la brezza, la rugiada e l'arcobaleno, e pensa che una cosa sola ci portano questi visitatori, l'amore grande della creazione, piccolo nella goccia di rugiada, ma enorme nel sole. Quindi Sii brava nel più piccolo e coraggiosa nel più grande atto della tua giovane vita. Lui ti saluta e ti manda questo fiore che ha colto nel giardino sotto la nostra finestra. Parliamo spesso della nostra piccola Evie, se ci manchi tanto. La sentiamo molto vicina, non davanti ai nostri occhi, ma nel nostro cuore. Oh padre, benedici la mia Evis con il tuo amore, la tua mamma. Mentre firmava la lettera, la sigillava e la porgeva al capitano con il cesto di frutta per il signor Cobb e gli altri amici di Singapore, gli occhi di Anna si colmarono di lacrime. Lui le tenne la mano solo un attimo più a lungo del necessario e le chiese: «Allora, si ferma?» «Sì», disse a voce bassa lei. «Che Dio la benedica», mormorò e uscì. Continuare il suo lavoro dopo fu molto più difficile. Scrivere la lettera aveva evocato il viso della figlia e le sue piccole braccia che la stringevano come quando era partita da Singapore. «Mamma, non ti lascerò andare», aveva detto. Mentre l'allontanava Anna si era sentita crudele. Le lacrime, che a questo punto venivano così facilmente, rendendola simile a Niobe, sgorgarono ancora dai suoi occhi e le caddero in grembo, trasformando il colore malva del suo vestito di mussola in viola. Non sapeva quanto tempo rimase così. Fu destata dal bussare alla porta. Entrò una donna siamese, forse sui 40 anni, robusta e scura. La seguiva una grossa scorta, il che le dava l'aspetto di una donna importante. Non era bella, ma il viso era dolce. La governante del giorno precedente fece da interprete. «Mem, questa è Kun Ying Fan, è la prima moglie del Kralahom. Le dà il benvenuto e chiede se c'è qualcosa di cui hai bisogno. Ringrazia e la invita a sedersi». Kun Ying si accoccolò su un divano basso, nascondendo i piedi sotto di sé. Una cameriera, camminando sulle mani e sui gomiti, le strisciò vicino con un vassoio d'oro che reggeva parecchi piccoli contenitori dello stesso metallo. Da questi scelse accuratamente qualcosa che si mise in bocca. Rimase in silenzio finché non ebbe masticato tutto con attenzione. «Si trova bene qua?» chiese tramite la governante. «Per favore, dille che mi trovo bene e che le sono grata per questo bel appartamento e per il buon cibo». Kun Ying sembrò gradire l'apprezzamento per il cibo. «Quanti figli ha, Mem?» chiese. «Due, un maschio e una femmina. La bambina va a scuola in Inghilterra». Il viso espressivo di Kun Ying mostrò simpatia. «Certo, è dura davvero». «E quanti figli ha, Kun Ying?» chiese Anna a sua volta. «Il mio signore non ha figli», rispose. La governante sussurrò una spiegazione. «È la seconda moglie del mio signore. Aveva ripudiato la prima moglie e scacciato il figlio perché non credeva di esserne il padre. Ma la buona Kun Ying lo ha riportato indietro e lo ha allevato. E adesso è un uomo importante, oltre che l'assistente di suo padre. Ma è l'unico figlio del mio signore. Le offra qualche dono, Mem?» le suggerì poi. Anna scelse da un cesto un bel paio di forbici. «Vuole Lady Fan accettare questo piccolo dono come segno della mia gratitudine per la sua generosa ospitalità?» Lady Fan ne fu affascinata. «Un giorno deve venire a vedere il mio giardino. Ho molti fiori. Ho notato i fiori meravigliosi nei vasi di ogni stanza del palazzo». Kun Ying sorrise di nuovo compiaciuta. «E stasera ci sarà una rappresentazione teatrale», disse. «Se Lady Leon Owens desiderasse parteciparvi, la manderò a prendere da una schiava». Anna accettò con un cenno del capo, non sapendo cos'altro fare. «Si tratta del Ramayana? Oh, l'ho visto spesso in India e lo ammiro». Adesso che aveva compiuto la sua missione, Kun Ying e la governante se ne andarono per riprendere le loro occupazioni. Lui si era già a letto quando le schiave vennero a prendere Anna per condurla nel salone in cui si svolgeva il dramma. Quando si abituò alla penombra, scorse il Kralahom, unico uomo in una stanza piena di donne. Su una panca coperta da un tappeto persiano sedeva come un idolo di ebano con le gambe incrociate. Sembrava un re, quasi un barbaro, ma attraente. Aveva un corpo vigoroso, il collo corto e robusto, il naso largo, gli occhi inquisitivi e penetranti. Anna sentiva in lui la forza di un'intelligenza terribile, nonostante la repulsione e la paura che aveva provato la prima volta in cui l'aveva visto sul Chow Pia. Kun Ying Fan stava in disparte, circondata dalle sue cameriere. Quando Anna entrò, non si voltò. Dalle pieghe di una grossa tenda un flauto diede l'avvio alla rappresentazione. Comparvero 12 ragazze che reggevano ventagli d'oro. Si sedettero sul pavimento davanti al gruppo centrale e presero a fare vento al Kralahome e alla sua sposa. Un altro gruppo di ragazze iniziò a suonare. Nel centro della sala comparvero le danzatrici. Erano una ventina, nude fino alla vita, con guaine dorate e drappeggi trasparenti. Alle dita erano applicate unghie d'oro che sembravano gli artigli di qualche uccello mitologico. In risposta a un'esplosione di musica gioiosa, le danzatrici formarono due file. In sincronia congiunsero i palmi e si piegarono finché le loro teste toccarono il tappeto davanti al loro padrone, che le guardava con indifferenza. Quando si ritirarono, sempre ballando, comparvero i personaggi principali del dramma: Rama e i suoi fedeli con abiti adorni di gioielli e il re Scimmia e i suoi seguaci nelle loro orribili maschere. La guerra ebbe inizio, anche se non capiva le parole. Per Anna non era difficile seguire la storia, che le era familiare. La grazia degli attori era squisita. Per due ore guardò attentamente finché alla fine la battaglia fu vinta e Sita ricatturato. Durante il finale trionfante, il coro balzò in piedi e compì una serie di cerchi complicati pestando il tappeto a tempo di musica. La danza era un miracolo di grazia, poesia in movimento. Ogni mossa era un'espressione d'amore e l'eloquenza della passione sopraffatta dal suo stesso ardore. In parte stordita, in parte affascinata, Anna distolse lo sguardo dalle ballerine per osservare la figura di pietra per cui questa danza esotica veniva eseguita, un idolo d'ebano, freddo e torvo. Appariva calmo come la notte, sprezzante di queste bazzecole di umanità offerte sul suo altare, un Moloch nero in cui la fiamma che si agitava dentro di lui bruciava con fierezza, anche se esternamente non se ne vedeva traccia. La musica si accese in un voluttuoso crescendo che sembrava presagire il culmine. Le danzatrici sollevavano i piedi con leggerezza, curvando le braccia e le dita in gesti arditi come rami di salice mossi dal vento. Tutti i muscoli dei loro corpi fremevano come foglie nella brezza, gli occhi brillanti e le labbra socchiuse. E mentre queste figure si agitavano adoranti per lui, il Kralahome rimase immobile. Poi si alzarono in piedi, sospinte dal vento del desiderio, come succede alle foglie dopo un temporale. Era Maya. Anna chiuse gli occhi per sfuggire alla sensazione di galleggiare fuori dello spazio e del tempo. No, non era Maya. Era un'incredibile realtà. Eccoli, burattini viventi, coi loro giovani corpi ansanti sul pavimento, che non osavano guardare il volto del loro dio silenzioso, su cui si mescolavano disprezzo e passione. Improvvisamente l'espressione scomparve. Lui sbadigliò, automaticamente si alzò, di scatto si ritirò, annoiato. Il terzo giorno in Siam, era davvero solo il terzo, era finito. 8. Ima Thun. Iniziò a fare davvero caldo. Non pioveva da mesi e l'erba nei giardini era bruciata. Gli alberi perdevano le foglie. Anche la notte non portava un po' di sollievo al caldo soffocante. Anna diventava impaziente di incontrare il re, ma il re non la convocava, né le era giunta voce che le fosse stata preparata una casa. Al mattino si alzava e faceva lezione a Luis, al pomeriggio riposavano entrambi nelle ore più calde. La sera, dopo cena, studiava con Monshi. Le piacevano queste ore che dedicava al persiano e al sanscrito, mentre goccia dopo goccia le antiche conoscenze si facevano luce nei suoi pensieri. Ogni giorno doveva subire l'invasione tumultuosa delle nemiche intime dell'harem. Arrivavano come uno sciame di locuste e raramente se ne andavano senza avere arraffato un bottino qualsiasi. A volte portavano con sé la vecchia governante e in queste circostanze tempestavano Anna di domande infantili. Al mattino e alla sera lei e lui passeggiavano in giardino o lungo il fiume. A volte Anna andava a trovare Kun Ying Fan nella sua casa, che aveva gli stessi colori tenui e luci soffuse che davano grazia ai saloni del palazzo, anche se qua mancavano tappeti e mobili di origine straniera. C'erano solo bassi divani, tavoli e qualche sedia, antichi e delicati, come Anna non ne aveva mai visti. davano una sensazione di freschezza e di tranquillità nonostante il caldo soffocante del mese di marzo. Questa casa affascinante era circondata da un giardino altrettanto attraente. Non c'era quell'uso eccessivo di alberi nani in grossi vasi cinesi che dava ai giardini orientali l'aspetto rigido di un cimitero. C'erano alberi in fiore, felci, cespugli, tutti mescolati in modo armonioso. Un sentiero ombreggiato conduceva a un giardino ancora più grande, pieno di cespugli in fiore di estrema bellezza. «Questi sono i miei figli», spiegò Kun Ying, ma la donna aveva poco tempo da dedicare alle visite. Dentro e intorno al palazzo vivevano più di 1000 dipendenti del principe e c'erano anche parecchie centinaia di schiavi a cui dare ordini. Questa città in miniatura dipendeva da Kun Ying. Più i giorni passavano e più Anna l'ammirava. Aveva modi dolci ma efficienti. Questa grossa famiglia funzionava facilmente con la calma che contraddistingueva la sua padrona. Anna era stata colpita dalla gentilezza infallibile con cui lei trattava le donne più giovani dell'harem del marito. Erano come sue figlie, ne divideva le confidenze, le consolava e difendeva la loro causa con il padrone comune. E per quanto caparbio e indifferente lui sembrasse, lei riusciva anche ad esercitare una cauta ma positiva influenza sul Kralahom stesso. Più o meno ogni giorno il signor Hunter passava a trovare Anna per informarsi sulle sue necessità e metterla al corrente degli sviluppi delle trattative per la sua presentazione a corte. Era un ometto, preoccupato, serio, da sobrio e molto vago quando, più di frequente, non lo era. Una volta si fece accompagnare dalla moglie, una donna piacevole, in parte siamese e in parte portoghese, che si chiamava Rosa Ribeiro de Albergarias Noi Hunter. Mostrava interesse per lui se per i suoi giochi, perché anche lei aveva due ragazzi, Robert di 11 e John di 9 anni. Louis ne ha solo 6 e la mia bambina Avis ne ha 7, si sta recando a Londra per andare a scuola. Sul viso della signora Hunter comparve un'ondata di compassione. È duro essere separati dai propri piccoli, anche i nostri ragazzi dovranno partire, ma non sopporto l'idea della separazione. E sospirò. A volte il Kralahom mandava l'interprete anziché il signor Hunter. Le sue visite erano sempre sgradite. Anna era seccata da quel misto di umiltà servile e di orgoglio arrogante e per quanto provasse non riusciva a mascherare la ripugnanza che suscitava in lei, anche se sapeva che era saggio cercare di farsi il minor numero possibile di nemici in quello strano paese. Un pomeriggio sul tardi ricevette una visita dai signori Mattoon della missione presbiteriana americana. Il signor Stephen Mattoon aveva occhi vivaci e la barba. La signora era una donna comune, con lineamenti pronunciati e portava i capelli raccolti sotto un cappello con la veletta. Ma qualcosa in lei fece sentire a suo agio la giovane inglese. Diventarono subito amici. Anna apprese che erano in Siam da 15 anni, salvo qualche breve parentesi, e che 10 anni prima la signora Mattoon e due altre missionari avevano insegnato a palazzo. Il re ci aveva invitato a insegnare alle donne. Doveva essere l'anno della sua salita al trono, il 1851. È difficile mantenere la loro attenzione per più di pochi minuti. Alla maggior parte di loro non è mai stato insegnato a usare la testa, ma molte hanno un'innata nobiltà di carattere su cui lavorare. «Credo», interloquì Anna, «di dover insegnare anche ai giovani principi. Oh, ed è una grossa occasione, perché uno di essi diventerà re». «Le donne dell'harem mi hanno messo una gran paura del re. Lo chiamano il signore della vita, titolo davvero impressionante per un essere umano e indicativo del suo potere. È davvero capriccioso e vendicativo, come dicono?» La signora Mattoon esitò. «Sì, non sarebbe giusto farle credere il contrario, ma è un uomo estremamente intelligente e ha fatto molto per il Siam. Quelli che lo conoscono da tempo lo ammirano molto». Ha idee molto avanzate, ma deve stare attento agli intrighi da parte dei nobili più reazionari e della massa del popolo che teme i cambiamenti. È il capo di quello che si potrebbe chiamare il giovane partito siamese. Dalla sua parte ci sono il giovane fratello e secondo re, il Kralahom, il principe Wongsa, che incontrerà. L'ho già conosciuto, la interruppe Anna. Davvero? E alcuni altri. Ma la nobiltà in generale ha paura del commercio con l'Europa, hanno timore delle aspirazioni coloniali della Francia e dell'Inghilterra e avrebbero preferito una politica di isolamento, Il re quindi ha un piede nel passato, nel cuore del feudalesimo, e uno nel mondo moderno della civilizzazione e della scienza. È difficile dire di volta in volta se si comporterà come il despota orientale o l'uomo di scienza erudito. È un uomo brillante, l'ho visto comportarsi in modo molto crudele, ma dar prova anche di gran tenerezza d'animo. Vede, spiegò il marito, avrebbe dovuto salire al trono alla morte del padre nel 1824, ma il fratellastro maggiore era molto potente in quei tempi e usurpò il trono con la vaga promessa che lo avrebbe restituito al principe Mancuta a tempo debito. Il principe si sentì minacciato e in pericolo di vita, lasciò la moglie e due bambini piccoli e si fece prete. Aveva una naturale inclinazione a imparare qualsiasi cosa, divenne un esperto di pali e di sanscrito, divenne un alto sacerdote e in questo modo acquisì una libertà che non avrebbe avuto a palazzo. Con un missionario, Jess Caswell, studiò anche l'inglese e il francese e il latino con il vescovo Palgua. Ed è anche un matematico e un astronomo dilettante. Sembra una persona formidabile, rise Anna. Lo è, continuò il signor Mattoon. Per esempio è il primo insieme ad avere messo in piedi una tipografia. Ha persino preparato un carattere nuovo per il pali, che ha chiamato Ariyak. Il carattere cambogiano che si usa comunemente in Siam ha bisogno di 1000 matrici, mentre per il nuovo carattere del re ne servono solo 41. Sì, è un uomo sorprendente. Mentre era prete ha anche iniziato un movimento per riformare il buddismo e per riorganizzarne la chiesa. La signora Mattoon aggiunse, e adesso che è re, ha la sua tipografia a palazzo. Ha già visto qualcuna delle sue pubblicazioni? Non ancora, rispose Anna. Usa l'inglese in modo sorprendente. Non ha accuratezza grammaticale, ma usa la lingua con forza. Le dobbiamo dare qualche esempio quando verrà a trovarci. Oh, ne sarò lieta, ma mi dica come mai ha smesso di insegnare a palazzo. È una lunga storia, spiegò la signora Mattoon. Il re è molto sensibile alle critiche. È abbonato ai giornali di Singapore e li legge alla ricerca di ogni riferimento alla sua persona. Se qualcosa non gli piace, si infuria. Parecchi anni fa ci fu un articolo su un giornale che criticava i suoi negoziati con alcuni paesi europei. Ci chiuse immediatamente le porte del palazzo senza alcuna spiegazione. Sospettava che l'articolo offensivo fosse stato scritto da un missionario battista e ci volle più di un anno per convincerlo che non si era trattato di nessuno di noi. Alla fine capitolò, ma da allora è sospettoso nei nostri confronti, ma come ho detto è un uomo intelligente, bisogna solo fare attenzione. Mentre raccoglievano le loro cose per andarsene, la signora Mattoon aggiunse: «Deve venire a trovarci. La nostra casa è a poche miglia di distanza sul fiume». «Oh, l'ho vista», la informò Anna. «Mi ha dato la sensazione di essere a casa in una terra straniera».